2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Da molto tempo non parliamo dei progetti per portare internet a banda larga nelle zone considerate a fallimento di mercato, quindi fuori dalle città, nelle campagne, nelle montagne. Devo dire anche in alcuni casi in zone vicine alle città. Ci sono insomma queste zone che sono state catalogate come a fallimento di mercato, quindi dove gli operatori di telecomunicazioni non investono e bisogna metterci soldi pubblici. Allora, da molto tempo non ne parliamo, anche perché non ci sono tante notizie, e devo dire che alcuni ascoltatori ad un certo punto hanno detto vabbè, basta però parlare di questi progetti che invece sono molto importanti, quindi io ne continuerò a parlare perché fanno parte della strategia di un paese per essere più competitivi e ce n'è molto bisogno. Allora, vi aggiorno, perché comunque un po' di aggiornamento va fatto. Sono attivi i primi bandi Infratel, che è una società del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupa di questi temi, quindi mette a gara queste risorse per far costruire questa infrastruttura che rimane di proprietà di Infratel, quindi dello Stato, ma verrà gestita da un operatore di telecomunicazioni o da più operatori in base ai bandi che verranno fatti. Allora, i primi fondi dovrebbero essere aggiudicati entro i prossimi 2 mesi, a seguire gli altri bandi, e poi inizieranno gradualmente i lavori, e diciamo che nel 2021-2022 tutta la cablatura dovrebbe essere completata. Un dato interessante che è uscito negli ultimi giorni e che conferma la necessità di questi interventi ci dice che attualmente solo il 17% dei comuni dove ci sono distretti industriali è coperto con connessioni ad almeno 30 megabits, che secondo le indicazioni europee è il minimo che dovrebbe esserci in un territorio. E quindi ce n'è molto bisogno, perché è inutile altrimenti parlare di fabbrica 4.0, di manifattura 4.0, se uno costruisce tutto ma poi non ha la connettività è come che non faccia niente. Alcune notizie in breve selezionate durante la settimana, le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da Nokia, che oggi molti di voi lo sapranno è uno dei leader mondiali delle infrastrutture di telecomunicazione, e quindi antenne, apparati di trasmissione eccetera eccetera, ma ancora molti brevetti che riguardano la telefonia mobile. Dunque Nokia ha ufficializzato l'accordo con HDM per produrre smartphone. Chi è HDM Global? È un'azienda finlandese fondata da ex di Nokia che ha acquistato le licenze per produrre e vendere telefonini e smartphone con marchio Nokia. Ha una licenza per i prossimi 10 anni. Questi telefoni verranno prodotti da una controllata di Foxconn in Cina e in Vietnam, e da questa settimana sono riapparsi in vendita sul sito Nokia alcuni telefonini di fascia bassa, mentre i primi smartphone Nokia con sistema operativo Android arriveranno sul mercato nella prima metà del 2017. Digital News. Nikola Tesla, detto meglio Nikola Tesla, uno degli inventori che più ha contribuito allo studio dell'elettricità, dell'elettromagnetismo, ha ispirato il nome dell'azienda che sta guidando l'elettrificazione dell'automobile, cioè la Tesla. Però, visto che il cognome era già occupato, un'altra azienda americana che dal 2020 vorrà produrre camion elettrici ha usato il cognome. Nikola Motor Company ha presentato questa settimana il primo prototipo di una motrice di un camion, una cosa incredibile, con 6 motori elettrici, circa 1000 cavalli, e anche fuel cell a idrogeno per portare l'autonomia, quindi per produrre ulteriore energia elettrica e portare l'autonomia a 1900 km. Questo è un progetto molto interessante che riguarda appunto i camion e non le automobili. Il primo prototipo verrà messo su strada nel 2020. Digital News. Parliamo ancora di auto elettriche. Ford ha annunciato di voler estendere i test dei veicoli a guida autonoma, che certo non necessariamente sono elettrici, ma lo saranno quasi sicuramente. Allora, ha annunciato di voler estendere i test dei veicoli a guida autonoma all'Europa nei prossimi mesi. Le prime Ford inizieranno a circolare in Inghilterra e in Germania. Sempre Ford, assieme a BMW, Mercedes e Volkswagen, hanno annunciato una collaborazione per creare entro il 2020 una rete di ricarica d'alta potenza per veicoli elettrici lungo le principali autostrade d'Europa. E questa è sicuramente una notizia importante, perché il tassello per completare il circolo virtuoso dell'elettrificazione delle auto è appunto la rete di ricarica. Parliamo di intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato recentemente a 2024, questo è un tema di estrema attualità, ci sono investimenti in tutto il mondo, notizie settimana dopo settimana. Però oggi parliamo di intelligenza artificiale applicata ad un settore che molti potrebbero ritenere non toccato dalle macchine, che in maniera automatica riescono addirittura a scrivere pezzi giornalistici. Saluto Guido Romeo, che è un giornalista scientifico tecnologico, collabora con Nova Il Sole 24 Ore. Guido, bentornato a 2024. Grazie. Partiamo da una notizia di pochi giorni fa che riguarda il mondo del giornalismo. Reuters è un'agenzia di stampa internazionale conosciuta dai più, ma se uno non la conosce lo ricordiamo. Ha presentato, a meglio, svelato una tecnologia che già viene utilizzata, che si chiama News Tracker. In realtà si sapeva che avevano fatto questo News Tracker, ma non ne avevano mai parlato in pubblico, e quindi si capiva che il News Tracker serviva per tracciare le notizie, cioè per mappare l'emergere di notizie online attraverso i social, soprattutto attraverso i social. Però l'altro giorno hanno detto una cosa in più, hanno rivelato un particolare in più che è importante. Non è solo la velocità e la scala con la quale il News Tracker traccia le notizie e identifica, diciamo, le cose emergenti. Per dirne una e per capire anche l'importanza, Reuters grazie a questo è arrivata 8 minuti prima di tutti gli altri sulla storia delle bombe all'aeroporto di Bruxelles, quindi una differenza notevole anche per, non solo per le metriche d'agenzia, ma anche per chi magari quel giorno stava andando all'aeroporto, perché certo. La differenza tra la vita e la morte magari. Ma ecco, quello che hanno detto, quello che hanno spiegato è che News Tracker fa anche un'opera di verifica, cioè assegna un peso ai tweet, agli articoli che vede. Per esempio, in un tweet con una foto di un evento che sta succedendo è più attendibile per News Tracker di qualcuno che dice: ah, oddio, sta succedendo questa cosa, ma poi non dà dettagli. Certo, magari non è vero. Tra l'altro, il tema della verifica dei fatti online è un grande tema di cui si discute soprattutto dopo l'elezione del presidente degli Stati Uniti, ma comunque negli ultimi tempi soprattutto negli Stati Uniti, e alcune aziende di tecnologia, non ultima Facebook, si è impegnata a sviluppare tecnologie per fare in modo che le bugie, chiamiamole così, che vengono messe in rete in qualche modo vengano scoperte dai sistemi automatici, e parliamo di intelligenza artificiale. Assolutamente. Beh, nel caso di Trump e anche della Brexit forse c'è da chiedersi se non sia un problema culturale, perché nonostante siano, certo, diciamo, per Trump non è mancato chi ha corretto Trump. Trump ha vinto addirittura premi come quello dei pantaloni infuocati per le cavolate che diceva. Però questo non l'ho affermato. Non, certo, tu dici non è un problema di intelligenza artificiale. È un problema di intelligenza umana. Sì. Certo, però il tema in questi ultimi tempi ha coinvolto le aziende di tecnologia proprio in questi termini. Perché la cosa interessante, e la diciamo soprattutto quelli più scettici o quelli che faticano a credere che i sistemi di intelligenza artificiale, i robot di fatto, che siano software o umanoidi, possano replicare oggi ancora poco, però cominciano a farlo, attività umane che sono prevalentemente intellettuali o creative, e quella del giornalismo è, o comunque dovrebbe, e in molti casi lo è. Beh, guarda, a maggio c'è stata una startup che lavora con il Financial Times, che si chiama Stealth, che ha creato Emma. Emma è un software, e a maggio hanno fatto una gara, Emma e i suoi colleghi, perché Emma è considerato uno dei giornalisti della redazione, e ovviamente li ha stracciati tutti nella redazione di un pezzo finanziario, di finanza, insomma, perché Emma ci mette qualche millisecondo e anche i più bravi giornalisti, insomma, meno di 30-40 minuti non ce la facevano a farlo. Cioè lei ha scritto un pezzo? Ha scritto un pezzo in linguaggio umano, non quello che si dice linguaggio naturale, quindi quello che stiamo usando anche noi per parlare. Sì. L'obiezione dei capi redattori è stata che, effettivamente era molto più ricco di dati, forse addirittura troppo ricco di dati, quindi risultava pesante come stile, però era sicuramente corretto, sicuramente più aggiornato, perché io mi ricordo quando facevo i pezzi di borsa in un'agenzia, quando tu arrivavi in fondo al pezzo di borsa della mattina, il primo titolo che avevi citato aveva già cambiato valore, quindi chiaramente la macchina la non lo puoi, certo. la velocità conta, ma forse il tema, la tua obiezione e l'obiezione di chi, appunto, diciamo dei creativisti, è corretta, però bisogna separare quello che può fare l'uomo e quello che fa meglio la macchina. La Financial Times però hanno pensato, va bene, la macchina fa una cosa, ma poi i titoli, l'opera di abbellimento la fa l'uomo. Le macchine non sono brave a fare tutto, cioè su questo diciamolo. Per esempio, non so, ancora oggi. Ancora oggi. Però ti farà piacere sapere, per esempio, che sono pessime a parlare, quindi in radio tu sei più protetto degli altri. Questo un pochettino mi è chiaro, però attenzione, perché ne parlavo anche con i nostri tecnici di regia, Adobe ha fatto vedere un software che ad oggi servono ancora una trentina di minuti di parlato, cioè io e te parliamo, diamo in pasto alla macchina il nostro parlato, se è di una persona sola è più identificabile ovviamente, la macchina impara e dopodiché, dato un testo, riesce a parlare, trasformare quel testo in parole, con il linguaggio e il timbro di voce di quella persona che viene campionato. Quindi questo mi preoccupa. C'è un'azienda, e tra l'altro lì c'è una grande collaborazione delle masse. Se tu pensi che in America e in Inghilterra e anche in Germania è già attivo il sistema Alexa di Amazon, Alexa fa esattamente questo, perché quando tu hai un Alexa, un Echo con un sistema Alexa, il motore di intelligenza artificiale, quando ce l'hai in casa tu lo addestri, e Amazon avrà tutti questi addestramenti fatti dagli utenti su cui creare un super motore, chiaramente. Sì. Faccio una parentesi, la lancio agli ascoltatori, poi magari ci torneremo sopra. C'è chi dice che nel medio-lungo periodo Amazon, sul fronte dell'intelligenza artificiale, anche sulla capacità di ricercare cose che interessano alle persone, interessi delle persone, batterà Google. Vedremo se queste previsioni saranno confermate. Tornando alle macchine che scrivono, mi sembra di capire, tu lo hai anche scritto recentemente sul Sole 24 Ore, che è soprattutto nel settore finanziario dove i software di intelligenza artificiale cominciano a scrivere e, diciamo, affiancano più che sostituiscono i giornalisti. No, sostituiscono. Per alcuni sostituiscono. Forbes ormai ha cominciato a sostituire. Reuters ha automatizzato anche un'altra cosa, che sono lavorano con una startup che si chiama Graphic, californiana, e Graphic gli automatizza i grafici della Excel, hai dei dati e loro ti trasformano in grafici in maniera automatica. E la scrittura delle trimestrali ormai in America, anche da Associated Press, viene fatta da sistemi automatici, perché ecco lì bisogna capire su cosa lavorano bene le macchine. Le macchine lavorano bene su dati strutturati, quindi tutto quello che è report finanziario, andamenti di borsa, perfetto. Sì, si è cominciato dalla finanza perché ci sono più soldi, ma adesso si sta facendo il settore sportivo. Ah, giusto, anche perché, lì sono strutturati, tanto poi, una squadra batte l'altra oppure al tal minuto. Non solo, se tu pensi a Narrative Science, che era una delle, diciamo, delle più grandi, adesso che ha raccolto 10 milioni di finanziamenti in un incubatore a New York, in un anno solo, quindi non poca roba, loro hanno cominciato proprio sui dati sportivi, perché in America poi c'è molto la passione di avere tutto il track record del giocatore, eccetera. Quindi la macchina sa anche confrontare con quello che è il tuo battitore, il tuo lanciatore ha fatto nelle tre stagioni precedenti, e lo fa ovviamente a una velocità che per te è impensabile. Ah, certo. Quindi queste macchine, questi software, ricevono, facciamo l'esempio della trimestrale di un'azienda, ricevono il comunicato dell'azienda che appunto approva i conti del trimestre, e lì effettivamente i numeri sono più o meno sempre quelli. Anche la struttura. La struttura, se mai visto una trimestrale, più o meno il linguaggio è quello. Il fatturato, l'utile, l'EBITDA, eccetera, eccetera, quelli sono dati, e la macchina, avendo imparato gli stili, perché avrà copiato da qualcuno, ne ha talmente tanti in pasta che riesce a fare pezzi gradevoli. Comunque, sai, sui pezzi sulle trimestrali non è un esercizio di stile, anzi, se ti azzardi ti bacchettano di solito. Sì, ma pensa che, ecco, quelli sono, come dire, pezzi ad alto valore aggiunto, ma pensa che queste cose diventeranno, con delle economie di scala, anche molto low cost. Cioè, la partita di baseball dei ragazzi della scuola non avrai mai un cronista che te la segue, però se io creo un bot che è in grado di seguirtela, e qualcuno, un ragazzino, semplicemente con un'app mi mette i punteggi e gli score dei giocatori, chiaramente tu hai un giornalista in campo e puoi fare la cronaca di tutte le partite di college, dell'elementare, dell'asilo che vuoi, a costo zero. Quindi, diciamo, c'è una coda lunga che viene aperta da questi motori, e che non è necessariamente in competizione con i giornalisti in carne ed ossa, se questi si trovano, diciamo, una collocazione. Per adesso, da quello che hai visto tu, se entriamo in un ambito un po' più creativo, con dati meno strutturati, che ne so, la notizia di un incendio in una raffineria, quello è un po' più complicato per la macchina. Quello è un po' più complicato. Quello che le macchine non riescono a fare è riconoscere, leggere bene le immagini. Un'altra cosa che si sta cercando di fare, che è molto interessante, è la produzione automatizzata di video. Cioè, proprio in questi mesi ci sono stati anche un po' di incidenti, perché alcuni hanno provato a avere motori, applicare questi motori semantici alla lettura di testi che poi cercavano sul web o nelle banche dati fotografiche delle foto, dei pezzi di video, e montavano quindi dei piccoli video. Cioè immagini video correlate. Correlate a questo, come farebbe un video editor, un foto editor. Il problema è che allora la cosa funzionava molto bene, perché ovviamente si producevano migliaia di video in poche ore. Il problema è che gli utenti riconoscevano subito quelli erano i video fatti macchina e non li guardavano. Quindi il video, che ormai è diventata la pietra angolare del traffico sul web, fatto così ancora non funziona. Guido, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, ciao. Beh, ci sono anche altre notizie che avremmo potuto inserire nella nostra rubrica delle Digital News, ma sono molto brevi. Da questa settimana tutti gli utenti di YouTube potranno effettuare streaming video in 4K. Ovviamente per vedere il 4K serve un televisore 4K, o comunque qualsiasi altro strumento in grado di visualizzare immagini 4K. E se poi questo schermo è molto piccolo, o ci state a 10 cm oppure non riuscite a capire la differenza tra l'HD e il 4K, per questo motivo bisogna avere televisori molto grandi per apprezzare la qualità anche ad una distanza. E quindi ad una certa distanza, quindi non standoci troppo vicino, se no praticamente è inutile quella definizione. Un'altra notizia riguarda Coop. Ricorderete, abbiamo fatto anche un'intervista, andata in onda 2024, che durante Expo aveva presentato un supermercato del futuro, una sorta di test per capire anche come i consumatori avrebbero reagito. Allora, il prossimo martedì 6 dicembre al Bicocca Village a Milano il supermercato del futuro inaugura, e da questa sperimentazione che è stata offerta durante Expo, questo diventa un supermercato vero e proprio con tutta una serie di tecnologie per riconoscere gli oggetti, riconoscere i prodotti, per dare informazioni aggiuntive. Magari un tema su cui torneremo. Adesso parliamo del mercato pubblicitario digitale, che continua a crescere ma dove rimangono alcuni problemi. Però il primo che mi viene in mente è sicuramente il famoso mito della disintermediazione. Non è che ha funzionato tanto, ci sono ancora un sacco di intermediari, tanti player in questo mercato. Poi uno dei grandi problemi è l'alta concentrazione, ci sono pochi player, direi due, poi ne parliamo tra poco, che fagocitano più di 2/3 del giro d'affari. Altro grande problema, scarsa qualità. Quante volte dopo aver comprato, che ne so, un frullatore, vi arriva la pubblicità del frullatore? E tu dici, ma ho appena comprato il frullatore, perché mi fai vedere la pubblicità del frullatore? Oppure dopo aver comprato un volo aereo per Roma, vi perseguita la pubblicità sui voli aerei per Roma. E tu dici, ma perché mi fate vedere la pubblicità? Quindi chi naviga si infastidisce e usa i blocchi pubblicitari, i filtri, gli ad blocker. Quindi questo è un problema che il mercato dovrebbe riuscire a comprendere e a superare. Bisogna investire un po' di più in tecnologia e usarla la tecnologia. Se la usi male, tanto vale non usarla. E poi a proposito di tecnologia, il mercato della pubblicità digitale, forse non tutti lo sanno, è diventato una sorta di giungla di piattaforme automatiche che vanno sotto il cappello di programmatic, e che fanno sostanzialmente una cosa, fanno tantissime cose, anche molto complicate, incomprensibili, a velocità incredibili. Ci sono aste online per aggiudicarsi magari uno spazio in una home page in una frazione di secondo, ma a parte queste cose complicate, che cosa fa il programmatic? Cerca di ottimizzare il messaggio pubblicitario in base ai dati di cui la piattaforma dispone. Ovviamente se hai dei buoni dati la pubblicità è più efficace. Ad esempio, se sei una donna, vivi in una grande città, hai guardato un sito di viaggi e articoli sulla montagna in generale, il sistema potrebbe indovinare e dire forse questa è una persona che è interessata ad una vacanza in montagna. E allora ti fa vedere la pubblicità di un hotel sulle Dolomiti. Ovviamente ci sono anche molte opportunità e, come dicevamo poco fa, il dato positivo è che tutto il mercato cresce, come ci ha spiegato Daniele Sesini, che è il direttore generale di IAB Italia. Ricordiamo che lo IAB Interactive Advertising Bureau è la principale associazione internazionale del settore pubblicitario digitale. Daniele Sesini. Il mercato continua a crescere, come dicevi, si conferma un mercato sano. Ieri abbiamo visto i dati che abbiamo prodotto con gli osservatori del Politecnico di Milano, più 9%. La crescita 2016 su 2015, siamo a 2,36 miliardi di euro, quindi un dato comunque positivo, sostenuto in termini di crescita soprattutto dal video advertising, che è un comparto che cresce del 38% e che vale ormai il 21% del totale investimento pubblicitario digitale. Un dato importante che vede da un lato una concentrazione che persiste sugli over the top, quindi di fatto il 68% degli investimenti sono nelle mani dei due big player, ma per tutti gli operatori del mercato riteniamo ci sia una grande opportunità, perché al di là della crescita del digital advertising ci sono grosse opportunità da esplorare se solo guardiamo oltre i confini del perimetro tradizionale della pubblicità digitale, ed è il messaggio che ieri abbiamo dato credo in maniera molto forte con le limitless possibilities. Quali sono questi nuovi orizzonti da conquistare? Ieri abbiamo parlato molto di IoT, di Internet of Things, di intelligenza artificiale, di realtà virtuale. Sono tutti ambiti in cui oggi di fatto stiamo muovendo i primi passi. Siamo certi che le opportunità di fare comunicazione anche da un punto di vista pubblicitario sempre di più saranno connesse con l'opportunità di lavorare con questi nuovi moduli, con queste nuove opportunità, sia da un punto di vista creativo sia da un punto di vista tecnico. pensa solo alle grandi opportunità di lavorare con gli smart data. Siamo solo all'inizio, il programmatic sta sicuramente sviluppando l'opportunità di rendere sempre più efficienti ed efficaci le campagne, ma è solo l'inizio. Dobbiamo ancora capire bene come produrre i dati corretti, come utilizzarli all'interno degli algoritmi intelligenti. Certamente l'opportunità di lavorare per migliorare le performance delle campagne pubblicitarie è incredibile. Se a questo aggiungi le potenzialità creative e di generare esperienze emozionali, quindi coinvolgenti, di grande efficacia grazie alla realtà virtuale, c'è sicuramente un mondo di opportunità che si sta aprendo. Bisogna saperle guardare, bisogna, secondo me, saper testare, mettersi in discussione per testare, sperimentare e portare a casa quindi un risultato che nel tempo sicuramente arriverà. Torniamo brevemente ai numeri e al mercato, puntando l'attenzione su due fattori: la crescita del mercato e questa ingombrante forza di Google e Facebook. I due protagonisti a cui tu facevi riferimento sono appunto Google e Facebook, che, se pensiamo, hanno il 70% del mercato. Questo è sicuramente un problema. Siamo allineati da questo punto di vista, quindi sia sul fronte crescita sia sul fronte forza di questi due brand con il resto del mercato europeo e internazionale? Bah, sostanzialmente sì, diciamo che la concentrazione degli investimenti pubblicitari su questi due fronti sicuramente è un tema che non è italiano, ma è il tema del mercato globale. Ci sono però comunque grosse opportunità. Il mercato cresce comunque anche al di là di Google e Facebook. Ci sono opportunità che sono legate sicuramente al mondo del video. Ieri abbiamo visto dei dati importanti nel ruolo fondamentale che il video ha nel sostenere la crescita del mercato. Ci sono opportunità importanti con il programmatic, quindi se lavoriamo e lo faremo sempre di più come industry per sviluppare le capacità di produrre i dati qualitativi, quelli utili, e di farne un uso intelligente e mirato per qualificare e targetizzare sempre meglio le campagne, qui ci sono opportunità per tutti gli operatori, ma soprattutto, come dicevamo prima, ci sono se ci sforziamo di guardare oltre il perimetro tradizionale della pubblicità sui mezzi online. L'IoT, il VR, l'intelligenza artificiale stanno aprendo realmente dei contesti e degli ambiti in cui è possibile sperimentare, ma per creare business. Le opportunità stanno arrivando, ci sono, bisogna saperle cogliere, bisogna testare e sperimentare. Come sta reagendo l'industria in generale all'ad blocking? L'ad blocking, insieme alla viewability ed altri temi che sono molto caldi, sono i temi del momento, è un pretesto per tutta l'industria importante per lavorare sulla qualità, sulla trasparenza e quindi sui formati pubblicitari. Non a caso è nata recentemente a livello internazionale la New Coalition for Better Ads, IAB, insieme ad altre associazioni a livello mondiale, ai grossi investitori, sta lavorando per mettere a punto il nuovo set dei formati pubblicitari. Tutto questo è finalizzato. Meno ingombranti? Meno fastidiosi? Meno fastidiosi, esatto, meno fastidiosi, sicuramente diciamo più in linea con le aspettative di un pubblico che sicuramente può avere nella pubblicità un contributo importante di qualità anche da un punto di vista di esperienze di contenuti. Quindi la pubblicità sempre più spesso ha un valore importante nel dare un completamento al contenuto, se erogata in maniera attenta e intelligente, quindi con i contenuti giusti e con i formati giusti. Lo sforzo grosso è proprio questo, quindi l'ad blocking è sicuramente un problema da un lato, ma è anche un'opportunità per migliorare le regole del gioco ed essere più qualitativi e più trasparenti anche nei confronti degli utenti. Ti faccio un'ultima domanda su questo mondo che da un certo punto di vista è per gli investitori molto complicato. Siete consapevoli? Perché molto spesso sento persone, ma anch'io mi rendo conto che parlando con gli esperti di pubblicità digitale, molto più che un tempo con la pubblicità analogica, non si capisce nulla. Questo è assolutamente vero, un tema secondo me fondamentale. La risposta a tutto questo è trasparenza, è formazione, è cultura. I programmatic, le piattaforme digitali, i dati hanno complicato negli ultimi anni notevolmente le modalità di lavoro nel nostro mercato, che è già di per sé un mercato complicato, un ambiente complicato perché è governato dalle tecnologie. In questo senso credo che IAB, soprattutto anche grazie al direttivo che su questo ha spinto moltissimo negli ultimi due anni in particolare, IAB sta facendo molto proprio per creare cultura, formazione e quindi per semplificare in qualche modo le regole del gioco e rendere più facile, più comprensibile il mondo digitale agli investitori. È evidente che se gli investitori comprendono, capiscono, si possono fidare e si avvicinano in maniera più forte e con maggior fiducia, quindi investono di più in maniera più convinta. Questo è l'obiettivo che IAB si pone nel portare avanti programmi molto concreti sulla formazione. Quest'anno è nata la IAB Academy, che è un repository di formazione disponibile sia per gli operatori del mercato, sia per i soci, gli associati di IAB, sia per le aziende investitrici. Stiamo collaborando con un progetto molto importante di Fondazione Cariplo, che va proprio nella direzione di portare cultura, formazione sulle digital skills ai giovani che si affacciano e si avvicinano al mondo del lavoro. Stiamo preparando anche un'opportunità di creare, dialogare percorsi formativi ad hoc per le singole aziende, siano essi gli operatori di mercato o investitori pubblicitari. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, una breve pausa, riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024, quindi 2024 è radio24.it. Mi trovate anche su Facebook, su Twitter, basta scrivere 2024 oppure Enrico Pagliarini. Tra poco parleremo di cavi sottomarini, il grande traffico che transita attraverso le dorsali internet che collegano i continenti rappresenta più del quasi il 100% del traffico, cioè praticamente tutto il traffico transita attraverso queste dorsali e poi in mille rivoli arriva nei nostri uffici, nelle nostre case, nelle nostre aziende. Questo tra poco, adesso stiamo parlando di pubblicità digitale. Abbiamo accennato poco fa alla Internet degli oggetti. Allora ho chiesto a Carlo Noseda, che è il presidente dello IAB, dello Interactive Advertising Bureau, che cosa c'entra la Internet degli oggetti con la pubblicità, la Internet of Things. Che noi peraltro abbiamo rinominato Advertising of Things, perché qualche miliardo di oggetti connessi alla rete tra pochi anni, per noi che facciamo questo mestiere, vuol dire qualche miliardo di opportunità in più che abbiamo di dialogare con i nostri clienti o consumatori in modo poco invasivo, in modo assolutamente rilevante e pertinente. La comunicazione sbaglia quando interrompe una conversazione o quando cerca di inculcarti un messaggio in testa, invece quando arriva al momento giusto e diventa quasi servizio, diventa estremamente interessante. Per cui quando riusciamo a far combaciare queste due cose, abbiamo fatto bingo, e Internet of Things ci permetterà di avere molte più occasioni per fare bingo. Quindi in termini di raccolta di dati stiamo parlando dell'opportunità. Raccolta dati, ma anche di consegnare messaggi. Oggi parlavamo con BMW di self-driving cars del futuro, comunque di come sarà il modo di guidare nel futuro, e le automobili diventeranno anche dei salotti dove sarà possibile dialogare, dove sarà possibile leggere, dove sarà possibile scrivere, dove sarà possibile guardare un film. E se le aziende vorranno utilizzare quel touch point come momento di comunicazione e sapranno consegnare un messaggio rilevante per l'utente in quel momento, che avrà voglia di bersi un caffè, potrà fermarsi in un autogrill, che avrà voglia di riposarsi, potrà trovare un ristorante dove farlo, ecco che la comunicazione diventa rilevante, quindi per l'utente non c'è più un blocco ad ascoltarla, ma anzi, se la comunicazione che io vado cercando mi arricchisce la vita e mi dà delle opportunità in più, io sono più disposto ad ascoltarla. Realtà virtuale, che è un mondo che non sappiamo ancora che fine farà, perché è un mondo che sta nascendo, nella speranza che non faccia la fine del 3D, dei televisori 3D, che cosa c'entra e quali sono le opportunità per il mondo della pubblicità in questo mondo della realtà virtuale? Ma la realtà virtuale è sicuramente interessante, il mondo della comunicazione lo sta approcciando in maniera molto seria e professionale e permette di far vivere un'esperienza. Tanto più è forte l'esperienza che faccio vivere alle persone a cui mi sto rivolgendo, tanto più queste persone si ricorderanno qualcosa, per cui la realtà virtuale è un modo per far provare a delle persone delle cose che nella loro vita, tra virgolette, reale non sono in grado di provare. Naturalmente bisogna provare, bisogna avere il coraggio di approfittare di queste tecnologie e vedere anche dove ci porteranno, per cui non sono tra quelli che le demonizza fino a quando proprio non si è certi che in qualche modo non hanno veramente niente da offrire. Le promesse sono tante, grandi giganti del mondo della comunicazione ci hanno investito parecchi denari e quindi è giusto approfittarne e vedere. Poi magari sarà più fertile in determinati servizi rispetto che ad altri, perché risponderà magari a dei bisogni rispetto che ad altri. Tornando ai problemi del mercato pubblicitario, un altro grande problema è la nascita di mille piattaforme, mille intermediari, una che si connette all'altra, una dentro l'altra, un po' come le scatole cinesi, a volte non si capisce veramente nulla, ma tutti questi intermediari drenano denaro lungo la catena del valore, come si dice. Allora, si stima che mediamente per ogni euro investito all'editore arrivino il 60% delle risorse, fino in alcuni casi a punte del 20%, quindi uno investe un euro e un sacco di risorse vengono, non dico perse, perché poi tutte queste piattaforme hanno una loro utilità, ma se ce ne sono troppe il mercato pubblicitario non funziona. Se poi il destinatario del valore finale ne raccoglie molto poco, che è poi quello che diciamo rappresenta il punto di destinazione e soprattutto il motivo per cui viene fatta pubblicità, cioè un editore fa contenuti, gli utenti guardano, leggono, ascoltano quei contenuti e ha senso fare pubblicità. Ma se nel tragitto tutte queste risorse vengono in maggior parte perse, beh, abbiamo un problema, no? Cioè gli editori arrivano sempre meno soldi e quindi anche la qualità dell'informazione ne risente. Per non parlare, e questo è un problema soprattutto per chi investe in pubblicità, per i marchi che investono in pubblicità, ma non stiamo parlando solamente dei grandi marchi, anche del piccolo negozio locale che investe magari sulle piattaforme locali, oppure un sito specializzato in un particolare servizio, in un particolare prodotto che investe in internet. Se questo mondo è così complicato, così complesso, a volte non sai dove finisce la tua pubblicità e a volte potrebbe anche finire, e succede tranquillamente e spesso, che finisca su siti di dubbia qualità e il tuo marchio, il tuo nome, il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo servizio viene associato a quel sito di scarsi contenuti. Vabbè, insomma, tanti problemi, ma come dicevamo anche tantissime opportunità, anche alcune molto affascinanti, come abbiamo raccontato. Dunque, qualche anno fa il sindaco di Amsterdam ha detto che nella sua città ci sono 4 infrastrutture fondamentali per connettere la città con il mondo e assegnarle quel ruolo che conosciamo. Sicuramente Amsterdam è una delle grandi capitali del mondo ed è anche fra i più importanti hub europei. Allora, quali sono queste 4 infrastrutture che sono state citate dal sindaco di Amsterdam? Il porto, e nessuno ha dubbi che il porto di Amsterdam sia importante. L'aeroporto, e nessuno ha dubbi che l'aeroporto sia importante. Schiphol. La borsa di Amsterdam, una delle borse più importanti in Europa. E quarto, ma non meno importante, l'Internet Exchange. Un Internet Exchange è un punto dove gli operatori di telecomunicazioni si scambiano il traffico, serve per rendere più efficiente la rete Internet. A Milano esiste il Milano Internet Exchange, che è conosciuto anche con il nome di MIX. Esiste qualche altro punto di interscambio minore in Italia, potremmo dire che il vero Internet Exchange dell'Italia è il Milano Internet Exchange. E prossimamente vedrà la luce una nuova struttura che sarà collegata al MIX di Milano, che si chiamerà Open Hub Med a Palermo, vicino a Palermo, quindi è un luogo interessante. Allora, tutto nasce da un dato: molti cavi sottomarini in fibra ottica che arrivano dall'Asia e dal Medio Oriente, ma anche dall'Africa, passano per la Sicilia, ma poi proseguono per Marsiglia, che è diventato negli ultimi anni il più importante punto di approdo per accedere all'Europa, da traffico internet che arriva appunto dall'Asia, dal Medio Oriente e anche dall'Africa. Allora, perché non intercettare quel traffico in Sicilia e portarlo nel cuore dell'Europa? Sembra facile, ma fino adesso non siamo riusciti a farlo. E questa è sicuramente una buona occasione, una buona iniziativa. Open Hub Med. Ma facciamoci un'altra domanda e tra poco rispondiamo. Perché è così importante far parte del giro dei cavi sottomarini? Perché tutto il traffico passa di lì. E se il grande traffico della rete internet è oramai un valore, ha un valore economico, ha un valore in termini di connessioni, di informazioni per collegare le aziende del mondo e le economie del mondo, meglio far parte, essere al centro di questo traffico. Allora, di questo ho parlato con Simone Bonannini, che è l'amministratore delegato di Interroute, che è un grande operatore internazionale di telecomunicazioni, gestisce migliaia di chilometri di fibre ottiche in giro per il mondo. Simone Bonannini è anche uno degli ideatori del progetto Open Hub Med e Interroute è uno dei soci di questa nuova infrastruttura che vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno. Diciamo innanzitutto che statistiche ormai diffuse dimostrano che il 99% del traffico internet mondiale transita su quella che si chiama capacità bagnata, cioè sostanzialmente su cavi in fibra ottica sottomarini. Se a questo aggiungiamo il fatto che la diffusione delle reti in fibra ottica invece terrestri fino a casa dell'utente ha fatto sì che ogni utilizzatore finale non utilizza più i famosi 56 kilobit del modem che gracchiava, ma cominciano ad utilizzare le centinaia di megabit o i gigabit moltiplicati per il numero di utenti, questo poi si ripercuote sulle dorsali e quindi sul traffico internet che passa sui cavi sottomarini in maniera ragguardevole, in maniera importante, e di conseguenza ovviamente la capacità su queste dorsali deve essere aumentata, nuovi percorsi, magari anche più brevi, devono essere realizzati e quindi c'è un revival di investimenti in questa direzione, sostanzialmente per due motivi: incrementarne la capacità ed individuare nuovi percorsi magari più corti, perché quelle che si chiamano le latenze, cioè il tempo di propagazione del segnale, ormai più breve è, meglio è. Se noi seguiamo i percorsi di molti cavi sottomarini, capiamo anche come si sta muovendo ad esempio l'economia dei paesi, l'economia tra un continente e l'altro. Stiamo parlando anche di infrastrutture che in qualche modo sono strategiche o dovrebbero essere strategiche. Io mi diverto molto spesso a guardare qualcosa che c'è molto vicino, il bacino del Mediterraneo, e a paragonare quelle che erano le rotte navali dell'impero romano con quelli che sono i cavi sottomarini di oggi, e sono assolutamente sovrapponibili. Le rotte navali dicevano che tra la Sicilia e Alessandria d'Egitto servivano, credo, 9 giorni di navigazione, oggi servono alcuni millisecondi, ma la rotta è esattamente la stessa. Esattamente quello che dicevi tu, cioè i flussi economici hanno sempre determinato flussi di comunicazione e viceversa, i flussi di comunicazione portano a flussi economici e quindi a commercio sostanzialmente. Quindi oggi, guardando come si muove il traffico sulle reti di telecomunicazioni, si capisce sostanzialmente come si stanno muovendo anche i soldi, i commerci tra vari paesi. Osservando il globo ci si accorge poi anche quanto debole alla fine sia questa infrastruttura, perché quando diciamo che il 99% del traffico passa su capacità bagnata, cioè su cavi in fibra ottica sottomarini, e questi cavi si incrociano, guardando tutto il globo, in pochissimi punti notevoli, si capisce che quei punti in cui si incrociano, che si chiamano punti di singolarità, diventano critici, importanti, osservati speciali, ecco, direi questo termine. Beh, da un certo punto di vista è abbastanza singolare che molti di questi approdi di cavi sottomarini su cui transitano dati molto importanti e comunque una grande quantità di traffico non siano praticamente presidiati. Diciamo che nel 90% dei casi, tranne appunto pochi e rari casi, i cavi sottomarini arrivano a terra, poi c'è, non dico un tombino, ma una piccola infrastruttura o a volte anche qualcosa di più complesso, ma non ci sono i controlli che sono oggi riservati ad altre infrastrutture. Bisognerebbe anche a livello politico porre maggiore attenzione all'importanza che hanno queste infrastrutture. E a proposito dell'importanza, adesso parliamo anche di quanto strategico è il non tanto il controllo, ma l'opportunità di essere al centro di questo grande traffico e quindi di sapere da dove passano queste grandi dorsali internet. Allora, inizio dicendo che sono estremamente importanti le infrastrutture di telecomunicazioni, in particolare per un paese come l'Italia, che vive e vivrà sempre di più di know-how e di made in Italy. Quindi il fatto che su queste infrastrutture ci transitino i brevetti delle nostre aziende, le informazioni, i segreti industriali delle nostre aziende, è chiaro che bisogna iniziare a guardarle con un occhio un po' diverso e con più strategicità. Per rispondere alla seconda domanda, se esistono dei punti in cui alcuni paesi, controllando questi punti, possono creare dei problemi, la risposta è sì, e non c'è neanche bisogno di andare molto lontano. Sul globo sono alcuni questi punti, ma vicinissimo a casa nostra, voglio dire, il Mediterraneo, molti dei cavi che arrivano dal Far East entrano nel canale di Suez, toccano Alessandria d'Egitto per poi proseguire verso la Sicilia e quindi verso Marsiglia. Oggi sappiamo dai giornali qual è la situazione politica in Egitto, l'instabilità che c'è, e se si interrompessero i cavi di fronte ad Alessandria d'Egitto, di sicuro si ripercuoterebbe in maniera significativa, tangibile, proprio da parte di ognuno dei nostri, da ogni cliente, da ogni utilizzatore di internet, si vedrebbe in maniera tangibile un deterioramento della qualità del servizio e delle comunicazioni tra Far East ed Europa, senza ombra di dubbio. A proposito di Mediterraneo, tu hai citato l'Italia come centro del Mediterraneo, hai citato anche Marsiglia, però entriamo all'interno di un progetto che vedrà la luce, al quale già si sta lavorando, ma che vedrà la luce tra qualche mese. Tu sei uno degli ideatori di questo progetto che si chiama Open Hub Med. Che cos'è? A che cosa servirà? Allora, io sono fortemente convinto che in un prossimo futuro l'Africa e il Medio Oriente in generale giocheranno un ruolo fondamentale per l'economia europea. È evidente che il PIL europeo in generale, se vuole iniziare a crescere davvero, deve far sì, si devono creare nuovi mercati vicini a noi. Siccome sono sicuro che prima o poi questo succederà, e quindi quel continente inizierà a produrre, inizierà a generare dei mercati che consumeranno, la comunicazione tra quel continente e il resto del mondo non può che passare attraverso l'Europa, perché l'Europa è già crocevia fondamentale dello scambio di informazioni tra Far East e Stati Uniti d'America. Cioè, quindi anche senza l'Africa, già oggi tra il Medio Oriente, l'Asia e l'Europa c'è una forte connessione. Si deve passare dalla Sicilia. Storicamente non siamo riusciti a rendere la Sicilia centrale, ma sono stati molto più bravi i francesi a creare le condizioni affinché Marsiglia diventasse il punto importante dove le informazioni atterrano e poi proseguono verso Londra, Francoforte ed Amsterdam. Sì, concretamente, diciamolo, cioè stiamo parlando di cavi sottomarini che arrivano a Marsiglia, ma si fermano in Sicilia. Prima si fermano in Sicilia. Non siamo stati da italiani bravi a creare le condizioni perché quel traffico, che comunque tocca la Sicilia, anziché entrare in Italia, ha proseguito verso la Francia per poi raggiungere il resto delle città europee. Non siamo stati bravi da italiani a creare le condizioni. Oggi, secondo me, con quello che sta succedendo in Africa e che dovrà succedere in Africa, non possiamo permetterci, come italiani, di perdere quest'occasione di far sì che il sud dell'Italia diventi quello che in passato è stata Marsiglia nel raccogliere questo traffico e portarlo nel resto d'Europa. Oggi deve diventare tutto il sud Italia, la Sicilia e magari anche la Puglia, dove a Bari arrivano già altri cavi. Open Hub Med nasce semplicemente per questo. Nasce come consorzio di più soggetti che talvolta tra loro competono, ma che in questo momento sono dei partner, per creare quella massa critica iniziale, per convincere chiunque arriva dal Far East e dal sud del Mediterraneo si fermi in Sicilia prima di proseguire per il resto dell'Europa e invece eviti di fare chilometri in più sotto il mare per arrivare a Marsiglia. Storicamente è quello che succedeva, perché i francesi sono stati più bravi di noi italiani a creare le condizioni. Non possiamo più permettercelo, o altrimenti siamo persi e avremo i francesi che continueranno a sponsorizzare Marsiglia e i tedeschi che già stanno lavorando sulla via balcanica e la via greca, perché l'operatore internazionale greco è sostanzialmente di proprietà di Deutsche Telekom, di nuovo per raggiungere Medio Oriente ed Africa. Quindi, se capisco, dobbiamo fare quello che ancora non siamo riusciti a fare nemmeno con i porti. Ci sono delle merci che arrivano dalla Cina, transitano nel Mediterraneo e vanno o in Francia o ancora più lontano in Olanda o in Germania. Sarebbe molto più semplice, molto più intelligente, economicamente e anche ecologicamente molto più intelligente, far sì che le navi si fermino in Sicilia o addirittura nel sud Italia per poi proseguire verso l'Europa. Con le telecomunicazioni valgono più o meno gli stessi principi, forse un po' più facile, perché stendere una fibra è molto più facile che fare un'autostrada o una ferrovia, è anche un business. Allora, il tuo paragone è perfettamente calzante, è esattamente la stessa cosa. Le telecomunicazioni, appunto, si parla di reti di telecomunicazioni, le reti sono sempre tutte uguali, le reti del gas, le reti elettriche, le reti dei trasporti, le reti ferroviarie, le reti stradali, e i principi che le regolano sono molto molto simili. Quindi quello che hai detto è perfettamente calzante. È anche un business? La risposta è sì, perché basta guardare di nuovo quello che è stato fatto a Marsiglia. Quindi negli anni si sono create delle condizioni tale per cui si sono generati dei posti di lavoro, aziende che tra di loro erano competitor nella realtà hanno fatto business e si sono scambiate servizi e quindi hanno generato valore e soldi. La stessa cosa può tranquillamente essere fatta in Sicilia, genereremmo posti di lavoro, aziende che si scambiano servizi, aziende che fanno business tra di loro. In un minuto, che cos'è Open Hub Med concretamente? Open Hub Med è sostanzialmente un data center che viene costruito in prossimità dei punti di atterraggio dei cavi sottomarini, e questo data center potrà ospitare server sui quali risiederanno software, applicazioni, contenuti internet e qualsiasi altra roba, che sarà estremamente facilmente raggiungibile e dal mercato italiano del sud Italia in generale, ma soprattutto dai mercati di tutti quei paesi che raggiungono l'Italia e l'Europa con i cavi sottomarini. Quindi tutto il Nord Africa, quando vorranno raggiungere dei contenuti, anziché dover andare a Francoforte, a Londra o ad Amsterdam, li potranno trovare in Sicilia molto prima, molto più velocemente, con quelle latenze ridotte, già in Europa. Questo è un argomento sicuramente molto interessante, molto affascinante e anche strategicamente importante per il sistema paese, come abbiamo spiegato. Bene, tutto per questa puntata di 2024, come sempre con le nostre interviste in versione integrale nella versione podcast, e come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, per l'ascolto. Rispondo anche alle persone che ci hanno scritto, molti hanno scritto dopo il mio breve, semplice appello a farmi capire se sono gradite le interviste in versione integrale oppure, come per il momento una persona ha sottolineato dicendo no, mettete il succo e quindi tagliate le interviste proprio solo al nocciolo delle questioni, e invece molti hanno detto no, non si tocca il podcast, che è proprio utile nella sua versione completa con le interviste in versione integrale. Il prossimo step sarà metterli fuori onda, perché a volte alcune delle cose più, non dico più interessanti, perché direi che il 90% delle cose interessanti poi gli ospiti le dicono nelle interviste, anche perché gliele estraggo a volte insomma facendo domande puntuali, però capita a volte che e devo dire che nel mondo della pubblicità succede spesso che in questi ultimi tempi ho frequentato, che mi dicono questo però non si può dire, e quindi certe cose appunto sono un po' più difficili da far dire davanti al microfono. Quindi prossimo step fuori onda, però dopo 2-3 puntate ci tolgono la trasmissione. Grazie ancora per il vostro ascolto. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. ci risentiamo la prossima settimana in onda il venerdì alle 22, domenica alle 13.30 o nella nostra versione digitale sul nostro sito internet o attraverso le app sullo smartphone. A presto.